Io ringrazio il direttore dell'onore che mi è stato fatto di inaugurare questo anno dell'Istituto e permettetemi anche di complimentarmi per la sede, per l'attività, per l'impegno che questo Istituto svolge. Quando fui contattato, tra i vari temi che avevo pensato di poter trattare, ho deciso di scegliere questo tema della comparazione, del rapporto comparativismo storia delle religioni, intanto perché è un tema, se volete, un po' metodologico, a prima vista un po' astratto, ma è un tema che oggi è ritornato di grande interesse in quest'ambito disciplinare, che non può non interessare in generale un istituto come questo. E poi perché il problema della comparazione o del comparativismo inteso come metodo sistematico applicato nel campo della storia delle religioni, evidentemente in una situazione, anche per chi poi non si interessa specificamente di questo tipo di studi, una situazione come quella attuale di pluralità religiose, di confronto di fedi, ecco, esige un minimo di attenzione per riflettere, se volete, sui suoi presupposti, sui suoi vantaggi e, almeno io penso, riflettere anche sui limiti. Dunque io ho diviso il mio intervento in sostanza in due parti, farò una serie di considerazioni, se volete, di carattere più generale che cerchino di fotografare quelli che a me paiono alcuni nodi in questo rapporto difficile tra comparativismo e storia delle religioni, rapporto che presenta una serie di difficoltà nella situazione attuale degli studi, e nella seconda parte, anche per non esercitare soltanto una critica, come dire, in negativo, proporrò un certo tipo di percorso che a me è più affine in quanto storico del cristianesimo, perché poi il problema della comparazione, del comparativismo, alla fin fine si riconduce, ecco, che tipo di comparazione in funzione del tipo di interesse, diciamo meglio, del tipo di metodo che si segue, un metodo storico, un metodo di storia delle religioni, un metodo, se volete, più in generale di scienza delle religioni. Ecco, che cosa può significare in questi differenti contesti accostarsi al mondo delle religioni, in questa prospettiva evidentemente scientifica, ecco, lo statuto scientifico di queste discipline in prospettiva comparata. Dimensione fondamentale dell'attività cognitiva, la comparazione costituisce un momento indispensabile per ogni disciplina intesa a conoscere non solo il mondo della natura, ma anche il mondo delle produzioni culturali, sociali, storiche. In fondo, lo stesso termine latino da cui deriva ci ricorda che solo la comparazione, permettendoci di assimilare ciò che non è noto a ciò che è noto, costituisce la mediazione necessaria tra l'identità dei concetti e la diversità dei dati. Quella mediazione, in altri termini, che mentre rende identico ciò che non lo è, l'altro da me, direbbe un filosofo, permette nel contempo di trovare quel punto comune che fonda le differenze. Applicata al campo delle scienze umane, la comparazione è diventata, in epoca moderna, a partire soprattutto dalla scoperta dei nuovi mondi, il mezzo indispensabile per tradurre, per un verso, un universo culturale e religioso nuovo nelle categorie dell'Occidente, inevitabile processo di violenza assimilante che, per un altro verso, ha messo in moto la possibilità sia di gettare uno sguardo diverso su noi stessi, sia di prendere progressivamente consapevolezza, talora in modo drammatico, delle differenze che l'originario sguardo assimilante occultava, decantando e, per così dire, decentrando questo sguardo attraverso quelle avventure della differenza che costituiscono un tratto distintivo del moderno o postmoderno modo di rapportarsi e dunque di confrontarsi a partire dal nostro sistema di valori, con un altro ormai assurdo a scala planetaria. Questa centralità e pervasività del processo comparativo, che ci accompagna nel nostro sviluppo cognitivo e che costituisce nella realtà quotidiana, oltre che nella storia della nostra cultura, una bussola indispensabile di orientamento, non deve d'altro canto farci dimenticare che, evocando il termine stesso di comparazione, evochiamo in realtà un'intera famiglia di termini e di concetti apparentati e correlati: l'analogia semantica, la metafora, l'identità, la differenza, la proporzione, l'analogia strutturale e così via. Un campo semantico e dunque un campo concettuale dai confini oscillanti, pronti a variare a seconda dei contesti e delle applicazioni. Un campo concettuale, d'altro canto, che permettendo di gettare quella rete in grado di catturare ciò che è comparabile, rende nel contempo possibile quell'operazione di distillazione del diverso alla quale conviene ora guardare più da vicino nell'ottica che in questa sede ci interessa, cioè quella del comparativismo in storia delle religioni. Come noto, infatti, in quanto disciplina scientifica dotata di un proprio metodo distintivo, appunto la comparazione, la storia delle religioni si è venuta affermando a partire dagli anni 70 del secolo scorso. La comparazione che la caratterizzava, come insegna in particolare l'esempio di uno dei suoi padri fondatori, l'indologo Federico Max Müller, figlia di una lunga tradizione di confronti con i mondi religiosi diversi, che si potrebbe far risalire almeno ad Erodoto, aveva però trovato terreno particolarmente fertile nel tentativo illuministico di studiare su base critica, abbandonando ogni precomprensione teologico-filosofica, le differenti tradizioni religiose, compresa quella cristiana. In particolare, essa si innestava fecondamente sul grande tronco di quel rapporto tra religione, in quanto esperienza fondamentalmente umana, e religioni, in quanto concrete espressioni storiche di questa disposizione originaria dell'uomo, che nel 1799 aveva trovato una sua prima compiuta espressione nei discorsi sulla religione di Federico Schleiermacher. Dialettica tra religione universale e religioni storiche, che poco dopo, grazie all'ipotesi indoeuropeista e alla grammatica comparata indoeuropea, individuerà un suo primo concreto campo di applicazione nella comparazione di miti e credenze appartenenti alle tradizioni religiose, appunto, indoeuropee. Comunque si rilegga questo processo, quel che ora preme sottolineare è piuttosto un altro aspetto che ci aiuti a mettere meglio in luce la natura problematica del rapporto tra storia delle religioni e comparazione. Mi riferisco al rapporto complesso e delicato con la teologia, rapporto che continua a gettare le sue ombre sulla situazione presente e sul quale conviene di conseguenza soffermarsi un momento. Nel 1916, schizzando la storia della quinta sezione di Haute Études, creata a Parigi nel 1886, come prolungamento dell'insegnamento della cattedra di storia comparata delle religioni, fondata nel 1879 al Collège de France ad opera di un teologo protestante, Albert Réville, come segno dell'impegno del governo laico francese nel momento in cui venivano chiuse le facoltà di teologia, di garantire uno studio scientifico della religione e delle religioni, uno storico, Maurice Vernès, sottolineava con vigore il carattere laico sia della disciplina sia della quinta sezione, destinata a diventare, come testimonia la sua attuale cinquantina di insegnamenti specialistici, un centro di studi di storia delle religioni tra i più importanti. Giustamente egli osservava che questa disciplina costituiva il punto di arrivo in materia religiosa di tutto un movimento di idee che aveva caratterizzato il XVIII e il XIX secolo e che era consistito in sostanza nel trasportare le scienze umane o sociali dal terreno del dogma sul terreno della storia. Parole di Vernes. Ricordando per un verso la matrice positivistica di questi studi, abbandonando per un altro lo schema evoluzionistico che li aveva caratterizzati all'origine e che mirava a comparare le varie religioni allo scopo di scoprire le origini della religione, Vernes, ricorrendo all'immagine più neutra dell'inventario, definiva lo scopo della disciplina in questi termini. Niente più dogmi dettati da un corpo privilegiato che si limita a far verificare i suoi titoli come un canale per rivelazioni celesti, ma un inventario paziente e metodico dei documenti, delle istituzioni, delle dottrine, che dia origine a una classificazione storica ricorrendo all'impiego esclusivo dell'esame critico dei documenti. In questo modo la quinta sezione diveniva, nei termini stessi di Vernes, che in questo non faceva che riprendere il programma di Réville, una facoltà, sono i suoi termini, di teologia laicizzata. Inventariare le religioni, questo era il termine chiave, o meglio i documenti che le concernono, piuttosto che, come aveva proposto 50 anni prima Max Müller, classificarle. Seguito in questo cammino da una pletora di epigoni, le cui opere di religione comparata avevano riempito gli scaffali delle biblioteche nel cinquantennio tra il 1870 e lo scoppio della Grande Guerra, ecco un piccolo ma decisivo cambiamento di metodo, e non solo di vocabolario, che coinvolge profondamente il problema che ci sta a cuore della comparazione nello studio delle religioni. In effetti Vernes non faceva che prendere atto del vicolo cieco in cui un certo tipo di religione comparata, quella che allora si chiamava con un termine inglese la comparative religion, di matrice evoluzionistica, si era in certo senso messa in questo vicolo cieco, che era poi la crisi di un comparativismo come metodo sistematico teso in ultima analisi a ricercare somiglianze tra fenomeni religiosi comparati in modo superficiale, prescindendo dal contesto storico di appartenenza e dunque dalle differenze, talora radicali, dal punto di vista della storia, il mutamento e la regola, che li caratterizzavano. Un tipo di comparativismo, peraltro, sullo sfondo del più generale processo di laicizzazione e secolarizzazione, in parte giustificato dal programma secolarizzante, soggiacente a questo tipo di operazione, di spostare il confronto tra Chiesa cattolica e cultura sul terreno a prima vista più neutrale della comparazione tra le varie religioni, allo scopo di classificarle in prospettiva evolutiva, vuoi per ricercare in un'ottica disincantata le origini puramente umane della religione, vuoi di contro, come risposta apologetica alla prima, per dimostrare e riaffermare su base scientifica la superiorità del cristianesimo, considerato culmine dello sviluppo religioso dell'umanità nei confronti delle altre religioni. La posizione di Vernes era differente, limitarsi ad inventariare i documenti religiosi, ma questo sollevava un problema. Se ci si limita ad inventariare i documenti religiosi, non si rischia di mettere tra parentesi la necessità stessa della comparazione? Il fatto che tra i vari insegnamenti specialistici della quinta sezione, ancora oggi, non ci sia un insegnamento di storia generale delle religioni, dimostra che l'interrogativo non è certo retorico. Di fatto, anche come reazione a quelli che apparivano pericolosi eccessi metodologici nell'uso della comparazione, questa istituzione, questa gloriosa istituzione francese, ha scelto una via, almeno dal punto di vista che ci interessa, di rinuncia programmatica a qualsivoglia comparativismo. Occorrerà attendere il secondo dopoguerra perché, grazie soprattutto alle ricerche di un Dumézil, di un Lévi-Strauss, di un Vernant, l'esigenza comparativistica, anche se su basi profondamente diverse sulle quali poi ritornerò, si riproponesse con forza. Dietro questa scelta c'era però anche il dubbio che il comparativismo, almeno così come era praticato negli studi di storia delle religioni dell'epoca, diciamo all'inizio, allo scoppio della Grande Guerra, continuasse ad essere un possibile veicolo, come si diceva allora, di infezione teologica. In effetti, la svolta fenomenologica, che a partire dalla più generale svolta fenomenologica di inizio secolo, caratterizzò tra le due guerre gli studi di storia delle religioni e che ebbe come conseguenza di imporre anche in questo settore un'esigenza ermeneutica di ricerca di senso e di intenzionalità nello studio dell'esperienza religiosa, doveva contribuire in qualche modo ad avvalorare questo sospetto. Per i nostri scopi basterà limitarsi ad osservare che gli studiosi più rappresentativi di questo indirizzo, il grande filosofo, teologo e storico delle religioni Rudolf Otto, l'olandese Van der Leu, fondatore della fenomenologia della religione, praticarono un tipo di comparazione che attraverso lo studio per progressivi cerchi concentrici dei differenti fenomeni religiosi mirava a metterne in luce le soggiacenti strutture corrispondenti in ultima analisi all'idea stessa di religione, sulle orme di Otto definita facendo ricorso alla categoria del sacro. Si tratta di un tipo di comparazione che, con alcune correzioni e adattamenti, ha continuato a godere di una relativa fortuna anche nel secondo dopoguerra. Mi limito a citare qualche nome noto forse soprattutto all'estero: Cantwell Smith, per esempio, Zener o Panikkar, che è Raimundo Panikkar. Ciò che accomuna questi studiosi, al di là delle pur rilevanti differenze di formazione e di ambiti specialistici, è l'utilizzo di una comparazione tra differenti fedi allo scopo di mettere in luce ciò che le accomuna, al di sotto o al di là delle variazioni storiche, con lo scopo di promuovere quella reciproca comprensione che ha la sua base nello sforzo ermeneutico di comprendere, senza violarlo, il punto di vista del credente della fede indagata. In questo modo la comparazione diventa uno strumento del dialogo interreligioso. Che essa serva, a seconda dello schema di teologia delle religioni soggiacente, a sottolineare le somiglianze o piuttosto a ribadire l'insormontabilità delle differenze, è questione secondaria rispetto alla funzione centrale che essa in questa prospettiva assume e che finisce per riproporre, da un punto di vista di uno statuto scientifico delle scienze religiose, scopi apologetici di promozione religiosa in contrasto con lo statuto scientifico che la storia delle religioni dovrebbe avere. Se il rapporto con la teologia costituisce ancora oggi una delle cause di fondo che stanno alla base delle relazioni difficili tra comparativismo e storia delle religioni, altre difficoltà provengono da nodi metodologici non sciolti o sciolti in modo non sufficientemente felice interni allo stesso campo di indagine, cioè proprio alla natura stessa del metodo storico. Partiamo da una prima generalissima considerazione. Oggi lo storico delle religioni, come conseguenza del più generale processo di specializzazione che ha investito anche questo tipo di studi, qualunque sia la sua formazione o i suoi interessi, è specialista di un settore, di un'area, per quanto vasta essa sia. L'era degli studiosi come Mircea Eliade, in grado di muoversi agilmente, secondo alcuni troppo agilmente, nelle più diverse tradizioni religiose, viaggiando infaticabilmente nel tempo e nello spazio, pare definitivamente tramontata. Di conseguenza, abbandonata la prospettiva comparativa di tipo simbolico che sorreggeva l'impresa eliadiana e mirante a scoprire in prospettiva ermeneutica le strutture fondamentali del sacro che si disvelano nella storia religiosa dell'umanità, lo storico delle religioni si pone, e a mio avviso non può che porsi, oggi obiettivi più limitati e meno ambiziosi. Infatti, anche se in linea con le matrici umanistiche della disciplina, tese a una conoscenza integralmente umana e storica. Lo storico delle religioni non è disposto a rinunciare all'esigenza, se volete, utopica, di ricollocare in prospettiva la più ampia possibile i fenomeni religiosi particolari indagati. In realtà questa esigenza egli realizza in prospettiva comparata pur sempre partendo da un campo specialistico di indagine per farvi nuovamente ritorno alla fine del suo più o meno lungo e avventuroso viaggio comparativo, arricchito di quelle esperienze che gli permettano, attraverso appunto il confronto con l'altro, di conoscere meglio quel familiare che ora gli si rivela in aspetti nuovi, fecondi e, perché no, inquietanti. Ma rimanendo alla metafora del viaggio, dove andare? Con quale attrezzatura? Per cercare che cosa? Ecco così affacciarsi il problema banale, insieme difficile, del che cosa, del come, del perché comparare. Converrà incominciare, per riflettere su questo nodo, con una distinzione. La comparazione, anche quella storico-religiosa, è per definizione una medaglia a due facce. Per avere di conseguenza realmente corso, essa deve essere assunta nella sua complessità di confronto che mira a mettere in luce somiglianze e differenze, dove quelle non disgiunge ma congiunge i due momenti del procedimento cognitivo. Se nella pratica essi possono corrispondere, anzi di fatto si traducono in due percorsi distinti, in seguito nello sforzo interpretativo decisivo, senza il quale l'operazione comparativa perde d'efficacia, essi dovranno però essere messi in relazione reciproca, perché il contatto sia veramente in grado di accendere una nuova scintilla conoscitiva. Il fatto che la comparazione affondi le sue radici nel terreno specialistico invita infine a ricordare l'estrema prudenza con la quale questa operazione dovrebbe essere condotta, se è vero, come è vero, quanto ebbe ad affermare il grande storico comparatista dell'antichità, Fustel de Coulanges: per un giorno di sintesi occorrono anni d'analisi. Il punto che ora deve interessarci è però un altro: qual è il posto che la storia deve avere nel processo comparativo? Interrogativo fondamentale, iscritto nel titolo stesso della disciplina e che si traduce nella contraddizione di fondo tra storia come storia del particolare, del concreto, dell'irripetibile, e religione come fenomeno che, anche constatato nel tempo e nello spazio, a una data precisa, sfugge alle maglie troppo rigide di un avvenimento puramente storico, dal momento che, in fondo, la sua sostanza non si produce né si esaurisce interamente nell'avvenimento, nella sua manifestazione. Dunque il contrasto tra storia come ricerca dell'individuale, dell'irripetibile, e comparazione, intesa come dimensione, come momento sistematico della storia delle religioni, in virtù del quale, a partire da una descrizione ideografica, cioè particolare dei fenomeni, ci si pone degli interrogativi che travalicano l'ambito puramente storico, sta alla base di un dualismo metodologico tra momento storico e momento sistematico che secca questo campo di studi col rischio di paralizzare. Si tratta di un dualismo che era già stato colto lucidamente all'inizio del nostro secolo da Giovanni Gentile, il quale nel 1912, in un articolo con il quale interveniva nel dibattito sul modernismo, aveva osservato: la storia delle religioni ha sempre navigato, erano passati diciamo 50 anni dalla sua nascita, tra questi due scogli ugualmente pericolosi, la negazione della propria possibilità e la negazione della religione, o religione senza storia o storia senza religione. Osservazione tanto più acuta, se non in qualche modo profetica, solo che si tenga conto dei successivi sviluppi della disciplina e che, per quanto riguarda proprio il problema della comparazione, hanno oscillato tra una comparazione simbolica o fenomenologica di tipo ermeneutico, che per difendere la religione dagli assalti corrosivi della deriva relativistica propria dello storicismo ha finito per costruire una storia comparata di tipo idealistico, fondata cioè su di un'idea di religione soggiacente allo sviluppo storico delle varie religioni, avulsa in fondo dai condizionamenti storici, nel senso che la storia, come puro scenario, si limita ad essere il mezzo e il luogo della sua manifestazione. È una storia delle religioni, come insegna il caso francese sopra ricordato, che si configura come somma di storie specialistiche prive in genere di problematiche comparative, in cui di conseguenza il dato religioso rischia continuamente di essere fagocitato dalla storia tout court. Perché occorre tenere sempre a mente solo attraverso la comparazione è possibile afferrare e fondare in modo induttivo e non a prioristico quel religioso, non importa ora come definito, che solo rende possibile e legittima una storia religiosa particolare. La crisi sia dello storicismo e dei paradigmi tradizionali del fare storia, qui penso in sostanza alla crisi di questa scuola francese delle Annales, sia della prospettiva fenomenologica e del suo comparativismo avulso dalla storia, ha indubbiamente favorito un rimescolamento delle carte, che ha contribuito a mettere meglio a fuoco il problema della comparazione storico-religiosa. Che si miri a una macro comparazione tra sistemi religiosi storicamente non in relazione, che presupponga di conseguenza l'assenza come sfondo e punto di partenza di quell'identico che, a meno di non voler ricorrere ad a priori filosofici tipo l'unità del genere umano, diventa di conseguenza il punto di arrivo, la meta dell'indagine, o a micro comparazioni all'interno di un determinato sistema culturale e religioso, che presuppongono di contro un'identità di partenza, e cioè una comune base storico-sociale e culturale, che la comparazione è invitata a mettere in discussione, a verificare, ad approfondire, ciò che ora va sottolineato è che il procedimento comparativo si impone in una prospettiva di storia delle religioni che voglia restare fedele al suo statuto di disciplina storica come un completamento non solo utile, ma anzi indispensabile per evitare le angustie della ricerca specialistica. Perché questa comparazione eviti di cadere nelle trappole sempre presenti di certo comparativismo, occorre però ricorrere a qualche ulteriore distinzione e precisazione. Una distinzione utile mi pare quella tra una comparazione di tipo euristico è una comparazione che, in mancanza di un termine più efficace, chiamerò di tipo ermeneutico. La comparazione del primo tipo è utilizzata dallo specialista per spiegare meglio quel dettaglio che la documentazione in suo possesso non gli permette di interpretare in modo adeguato. Fatto salvo, naturalmente, questo presupposto, cioè che questa spiegazione non sia effettivamente possibile rimanendo all'interno del campo specialistico, il ricorso alla comparazione si impone come utile mezzo di integrazione dell'indagine. Questa comparazione può aver luogo sia su base storica sia su base fenomenologica. Nel primo caso si ricorrerà a confronti con culture e religioni vicine, rientranti cioè in sostanza, se non nel medesimo sistema culturale, in ogni caso in un'area di possibili influssi storici. E in questa prospettiva generale, con tutta una serie di differenze e problemi sui quali adesso non è possibile insistere, che ad esempio si è posto il problema dello studio di tutta una serie di fenomeni relativi sia alla religione di Israele antico sia alle origini cristiane. Nel secondo caso si ricorrerà invece alla comparazione con una documentazione di aree religiose storicamente non collegate, tipo qui il caso ad esempio del lavoro di un importante storico delle religioni italiane, Angelo Breli, Paides e Partenoi, in cui alcuni aspetti dei processi iniziatici greci risultano illuminati, in assenza di una documentazione, da un confronto con le iniziazioni dei popoli indigeni. In entrambi i casi, comunque, lo specialista avvertito, andando a cercare all'esterno una soluzione per il suo problema interno, dovrà essere sempre attento alle differenze che esistono fra i casi confrontati, valutando le situazioni comparate nel loro complesso. Comunque, quel che preme osservare è che anche là dove la comparazione mette in luce un parallelo interessante, esso serve appunto a fini euristici, non cioè per spiegare il fenomeno del parallelo di per sé, ma per ritornare con uno sguardo nuovo alla documentazione di partenza. Diverso il caso della comparazione ermeneutica, che per la sua stessa natura solleva problemi più generali, che travalicano il campo dell'indagine storica aprendo scenari tanto affascinanti quanto inquietanti. In questa seconda prospettiva non interessa il dettaglio, o più in generale una migliore intelligenza del funzionamento della tradizione religiosa di partenza, quanto appunto il senso del parallelo scoperto. Anche in questo caso lo storico si trova ad un bivio. Per un verso, come insegna ad esempio il comparativismo di Dumézil, il quale ha sempre presupposto nelle sue indagini comparative un comune sostrato culturale indoeuropeo, rifiutandosi in genere, a differenza di certi epigoni, di applicare il suo metodo ad altri contesti, si può decidere di interrogarsi sul senso di fenomeni religiosi analoghi appartenenti a contesti storico-religiosi diversi, mettendone in luce, per rimanere all'esempio di Dumézil, la fondamentale ideologia o funzione tripartita, che diventa una chiave per decifrare testi e fenomeni religiosi alla luce di strutture soggiacenti. Quel che in questi casi è in fondo presupposto è una comune eredità indoeuropea, variante più sofisticata e al passo coi tempi della più tradizionale ipotesi storica di tipo diffusionistico. Per un altro verso, si può decidere di interrogarsi sul senso di fenomeni religiosi simili, o meglio analoghi, per spiegare la cui ipotetica identità o somiglianza non è d'altro canto possibile presupporre un comune sostrato culturale e storico. Si pensi al tema del dualismo e dei correlati miti dualistici, classico tema di storia comparata delle religioni. Si tratta di miti presenti sia presso popolazioni indigene come gli indiani del Nord America, sia in tradizioni folcloriche, per esempio balcaniche, sia soprattutto presso religioni dualistiche, dallo zoroastrismo allo gnosticismo, dal manicheismo ai dualismi medievali ereticali, catari. Una presenza e diffusione che non si lascia spiegare però su base diffusionistica, ma esige, per chi voglia avventurarsi su questo terreno, il ricorso a istanze superiori di vario tipo. E qui cito l'esempio di un saggio di Culiano, un allievo di Eliade, che ricorre alla fine per spiegare questo dualismo a un'ipotesi di tipo in qualche modo psicologico, neurofisiologico, la struttura bicamerale della mente umana. E comunque la comparazione ermeneutica, per la sua stessa natura, è costretta prima o poi ad abbandonare il concreto terreno dell'indagine empirica per avventurarsi sul terreno, forse più affascinante ma meno controllabile, di teorie e presupposti generali, come per esempio nel caso di Culiano la logica di risposte uguali che si ripetono in situazioni uguali, o prendendo ad esempio le indagini a sfondo etologico del grande classicista e storico delle religioni, della religione greca, Walter Burker, che si ispira a uno schema etologico, l'idea di un'eredità genetica e non storica, o almeno non rilevabile su di un piano puramente storico, di comportamenti e di modelli d'azione come l'azione sacrificale, in realtà affondanti le loro radici nel Paleolitico. L'elenco è troppo lungo per insistere. Giunti a questo punto, tenendo a mente la complessità dei problemi che abbiamo evocato, ecco, potremmo riassumere questa parte sintetizzandola al massimo, dicendo che ci troviamo di fronte oggi di fronte a due tipi di comparazione, e se volete uno spettro teso al massimo, all'interno del quale poi si trovano colori diversi, ma i due estremi sono da un lato da una comparazione di tipo funzionalistico, intesa attraverso un confronto a base specialistica che parte dal noto per ritornarvi a mettere meglio in luce le differenze proprie di una determinata tradizione religiosa. È una comparazione di tipo simbolico tesa a ricercare ciò che accomuna i vari fenomeni oggetto di indagine, allo scopo di illuminare le strutture fondamentali di quello che si chiama l'uomo religioso. Ecco, su questo sfondo io mi propongo di fornire, come dire, un'ipotesi alternativa, naturalmente da sottomettere alla discussione, in una chiave più storica, a me più familiare, legata ai miei studi di storia del cristianesimo, e porto come un esempio, una proposta, ecco, per una comparazione del profetismo cristiano. Cioè il problema che sorge a questo punto è che cosa può significare, rimanendo sul terreno della storia religiosa, studiare per esempio un fenomeno in prospettiva comparata così centrale come il profetismo nella storia del cristianesimo. Chi scorra gli studi sulla storia del profetismo cristiano, dalle sue origini bibliche, attraverso la crisi che conobbe alla fine del secondo secolo, le trasformazioni che subì come effetto di un determinato rapporto con l'autorità ecclesiastica nel periodo della tarda antichità, il suo rinascere a nuova vita nel basso medioevo, in particolare pensiamo a Gioacchino da Fiore, alla sua eredità, fino a certe sue metamorfosi moderne e contemporanee, non può non rimanere colpito da due constatazioni. Per un verso non esistono, per quanto mi risulta, tentativi in prospettiva storica di dar conto sul lungo periodo di questa storia carsica, fatta di improvvise emersioni in periodi di crisi, di contatti, ibridazioni. Per un altro sono in genere assenti da questo tipo di studi, prevalentemente interessati al divenire storico del fenomeno, e in particolare alle complesse vicende dell'eredità di Gioacchino da Fiore in epoca moderna, tentativi di comparazione con altri consimili fenomeni profetici. Detto in altri termini, per un verso non esiste una comparazione, potremmo dire, interna, di tipo sistematico, che metta in luce gli elementi distintivi del profetismo cristiano, attraverso le sue varianti storiche. Per un altro, non esistono tentativi di comparazione tra questo tipo di profetismo e profetismi di altre tradizioni religiose, a lei affini e dunque comparabili, a cominciare naturalmente dal giudaismo da un lato, dall'islam dall'altro, no? Due religioni, come dire, fortemente profetologiche. Si potrebbe aggiungere il manicheismo, insomma, in prospettiva comparata ve ne sono altri. Ora, quel che a me pare importante sottolineare è che il fenomeno profetico cristiano, proprio per le sue peculiari caratteristiche, meriterebbe di essere accostato anche in prospettiva comparata secondo una comparazione, per così dire, a cerchi concentrici, dapprima interna alla storia stessa di questo fenomeno, dunque radicata nei testi e in una prospettiva di lunga durata, onde metterne in luce tipi, forme, strutture. In seguito, attraverso un'opportuna comparazione con fenomeni profetici che presuppongono un comune sostrato religioso e culturale, come l'ebraismo e l'islam, per mettere meglio in luce, attraverso la differenza, il profilo peculiare del profetismo cristiano. Un'operazione, voi capite, complessa, che non è possibile fare in questa sede. Io mi limiterò ad alcuni cenni, come dire, che hanno un valore puramente esemplificativo per il primo percorso, una comparazione rimanendo all'interno del campo cristiano. Ecco, che cosa può significare in questo senso una comparazione sistematica all'interno della storia del profetismo cristiano? Qui vi sono problemi, nodi, sui quali non insisto, perché presuppongo ovviamente che siano noti, che sono iscritti, come dire, sono paradigmatici, ruotano intorno ai passi neotestamentari relativi a Gesù e alle affermazioni di Paolo nella prima Corinti sulla profezia come dono carismatico. Questo è legato al problema, in sostanza, del carisma profetico, del suo fondamento, del rapporto con l'autorità, dei criteri in funzione dei quali si distingue il vero profeta dal falso profeta. Una tensione dialettica, o meglio conflittuale, che si viene a costituire tra istanza carismatica e istanza ecclesiastica, che costituisce certamente uno degli aspetti più interessanti e in certo senso costitutivi del fenomeno. Proprio le vicende di questo conflitto, d'altra parte, ci pongono di fronte a due altri aspetti di fondo che una comparazione sistematica dovrebbe adeguatamente contribuire a mettere in luce nella sua logica trasformante. Il primo concerne la natura stessa del carisma, i suoi mezzi di legittimazione, le forme di comunicazione che questo carisma assume. In antico, configurantesi come chiamata ed esprimentesi in genere come comunicazione orale al pubblico dei fedeli del mandato divino ricevuto in condizione di ispirazione, questo carisma ha conosciuto nella storia successiva una varietà di forme di mediazione e di comunicazione, dai sogni alle visioni, alle apparizioni, che per un verso sfuggono a una griglia rigida ed univoca, per un altro ripropongono la ricchezza e la complessità di questa dimensione di comunicazione tra divino ed umano nell'ambito della tradizione cristiana. Il secondo, conseguente al primo, concerne la difficoltà di definire in questo ambito in modo univoco la figura del profeta. Come insegna per esempio il caso del montanismo antico, questa difficoltà emerge ben presto in seno alla storia cristiana, con esiti decisivi che hanno portato a ritenere che con la fine del secondo secolo la profezia di tipo carismatico abbia perso ogni funzione dinamica all'interno del campo cristiano. Di fatto però quel che noi rileviamo, accanto alla scomparsa della funzione profetica, è il continuo ripresentarsi di forme cristianizzate di divinazione, non solo in periodo tardo antico, quando si assiste a un fenomeno tipico come la, diciamo, cristianizzazione dell'oracolo antico, ma poi anche in periodi successivi, per esempio durante il Rinascimento. Si tratta di problemi di definizione, ovviamente rimandanti a problemi di delimitazione di campi di attività che non sono mai univoci, che dovrebbe essere compito di un'analisi sistematica mettere adeguatamente in luce. E questo rimanda in fondo a quelle che sono, come dire, le funzioni del profetismo nella storia del cristianesimo. E io vorrei limitarmi ad accennare a tre o quattro di queste funzioni caratteristiche che un'analisi comparativa sul lungo periodo contribuisce a mettere in luce. La prima è quella che si può chiamare di tipo divinatorio. Si pensi, per quanto riguarda l'ambito antico, alla funzione profetico-divinatoria che assumono i sogni e le visioni, martiri, santi, in possesso di un carisma particolare, la presenza dello Spirito. Seconda funzione, quella riformatrice. E qui la figura del Savonarola è solo la punta emergente di un iceberg. Nella tradizione cristiana, ad evidente continuazione della tradizione biblica, ed anche come effetto dei conflitti insorti con l'autorità e delle conseguenti forme di controllo intervenute, la figura del profeta si è cristallizzata intorno ad una funzione ben precisa, quella di colui che si rivolge alla Chiesa e al popolo di Dio, ma forse soprattutto alla prima, per ricordarle le sue origini pure e in nome di un mandato divino per invitarla a riformarsi. Terza funzione, la funzione politica. Il profetismo è servito infatti ripetutamente, a seconda dei differenti contesti storico-culturali, come forma di propaganda o di legittimazione del potere, di un gruppo, di un'ideologia. Vi è ovviamente un fenomeno di variabilità storica in questo caso, legato ad esempio a che cosa i contemporanei di volta in volta pensassero di questo tipo di profezie, sovente chiaramente strumentali, è riproposizione quasi immutata di più antiche profezie, quali significati vi attribuissero, quali caratteristiche di verità, quali criteri di autentificazione applicassero, quali modificazioni apportassero alle medesime profezie nel corso del tempo per adattarle di volta in volta al mutare dei contesti storici. Per un altro però, ed è il problema che ci deve interessare in questa sede, accanto a quello della variabilità, diciamo, dei nodi strutturali, vi è un fenomeno di ricorrenza che soltanto un'analisi comparata è in grado di mettere in luce, come il ripresentarsi di determinate configurazioni e usi, come la previsione di eventi futuri attraverso la riproposizione e riutilizzazione via via rimodellata di un armamentario profetico tradizionale, o ancora la funzione rassicurante e protettrice della profezia nei confronti di un gruppo, di una comunità in situazioni di crisi, e appunto la sua capacità di esorcizzare crisi e pericoli epocali, la capacità cioè di questo tipo di profezia politica di fornire significato e dare ordine agli eventi sociali e politici ritenuti incomprensibili. Caso tipico, la Rivoluzione francese. L'ultima funzione, o se si preferisce l'ultimo tipo di profezia, che io vorrei evocare, è quella che potremmo definire escatologica, perché collegata all'emergere in situazioni di crisi radicale di una figura profetica all'attrice di un messaggio di fine del mondo collegato ad attese millenariste. Si tratta evidentemente di un elemento costitutivo del patrimonio genetico cristiano, troppo noto per insistervi ulteriormente. Mi limiterò a ricordare che esso riemerge prepotentemente in epoca moderna, nell'ambito della Riforma, per poi di lì alimentare i mille rivoli della storia del settarismo protestante moderno. D'altro canto si tratta, nella sua variante giochimita, di un elemento che conserva una sua significatività anche in ambito cattolico, come hanno dimostrato in particolare gli studi di Jean Segui. Quel che per i miei scopi preme osservare è che ciò che una comparazione sistematica dovrebbe proporsi è una messa in luce, accanto alle variazioni storiche, dei tratti caratteristici. Quanto precede dovrebbe aiutare a mettere meglio in luce allora il tipo di comparazione che a mio avviso appare oggi più fruttuoso quando, abbandonando una prospettiva particolare di storia religiosa come la storia del cristianesimo, si decidesse di avventurarsi sul terreno di una comparazione in chiave di storia delle religioni. Questa comparazione potrebbe risultare metodologicamente efficace soltanto nella misura in cui essa, travalicando il terreno di un confronto tra concezioni affini, la cui eventuale somiglianza può spiegarsi in chiave genetica per virtù di influssi documentabili, per esempio c'è tutta una letteratura sul rapporto e le differenze del profetismo cristiano delle origini, da un lato con la matrice biblica e dall'altro con le forme oracolari del contesto ellenistico. Questo è una prospettiva. Dall'altro, un'analisi comparata in chiave di storia delle religioni dovrebbe essere in grado di fare un passo ulteriore, senza perdere il contatto con la concretezza della documentazione storica. E precisamente, come ormai avviene in diversi convegni e colloqui a livello internazionale, avviarsi ad una comparazione, come si dice, areale, con un brutto termine, cioè limitatamente a determinate aree storico-religiose, in contesti storico-religiosi uniti da un comune sostrato culturale e accomunati da forme politiche statali comparabili. E quanto hanno cercato di fare, ad esempio, Jean-Pierre Vernant e la sua scuola in Francia, comparando, ad esempio, sistemi sacrificali di religioni antiche, accomunati dal presupposto che essi sono espressioni di sistemi sociali affini. In questo modo si riprende, rileggendola anche alla luce di una maggiore consapevolezza storiografica e metodologica, un tipo di comparazione tra società antiche e i loro sistemi religiosi, le cui basi erano già state gettate nel secolo scorso da Fustel de Coulanges nel suo La Cité Antique. E vengo alla conclusione. Giunti al termine del nostro viaggio nei labirinti del comparativismo, vorrei concludere con un auspicio che riconduca, per quanto possibile, questa pratica al centro dell'attenzione degli storici in generale e degli storici e degli studiosi dei fenomeni delle religioni in particolare. In un celebre articolo del 1928, per una storia comparata delle società europee, Marc Bloch, il grande storico della società feudale, programmaticamente affermava, e cito: "Il metodo comparativo può molto. Io ritengo che la sua generalizzazione e il suo perfezionamento siano una delle necessità più urgenti che si pongono oggi agli studi storici. Esso può, deve informare le ricerche particolari. Il suo avvenire, l'avvenire forse della nostra scienza, cioè della storia per Bloch, dipende da ciò. Fine della citazione. A me pare che le considerazioni del grande medievista nulla abbiano perso in attualità e in cogenza. La comparazione è il metodo distintivo della storia delle religioni, in virtù del quale essa si è dimostrata in grado di darci uno statuto scientifico autonomo, da un lato evitando di essere risucchiata nel vortice di una storia generale intesa come costellazione o peggio affastellamento di storie specialisti, somma di storie particolari per loro stessa natura incapaci di cogliere la complessità e la ricchezza del fenomeno religioso. Dall'altro, proprio attraverso la comparazione, affrontando il problema, certo non semplice ma inevitabile, della definizione dei fatti religiosi in quanto tali. Come ogni autentica avventura intellettuale, d'altro canto, anche il comparativismo storico-religioso necessita di adeguamenti e correzioni di rotta, ma soprattutto di applicazioni e sperimentazioni che ne dimostrino la rinnovata vitalità e capacità di venire incontro alla crescente richiesta di un sapere critico in grado di interpretare in modo adeguato la ricchezza inesauribile di quel fenomeno che continuiamo a definire religione. Grazie. Professor Filoramo ha fatto una considerazione che indubbiamente è all'attenzione dei nostri allievi, ma direi proprio ancor di più, entra nella coscienza del nostro istituto, delle idee che lo sorreggono, degli intenti che esso cerca di sviluppare, degli orientamenti in cui sta muovendosi e che cerca di capire sempre meglio. Ecco, in questo senso veramente sento di dirgli un ringraziamento speciale per questa riflessione che su un piano di laicità rigorosa, però estremamente responsabile nel contempo, cerca di cogliere i passi di maturazione necessari di una metodologia per ragionare in questo campo. E proprio per questo mi sono sentito avvicinare molto forte all'attualità religiosa dei nostri giorni, quello che abbiamo sentito nella seconda parte a proposito del profetismo o di concetti chiave come questo del sacrificio, ecco, basterebbe da solo, ovvero a renderci consapevoli della necessità di questa riflessione anche per chi si muove prevalentemente o totalmente entro l'ambito della dogmatica cattolica o della fede cristiana, la quale non ha che da guadagnare, anzi nel nostro tempo mi pare di capire ha bisogno continuamente di allargare il suo respiro, di amplificare la prospettiva, di ampliare la prospettiva per capire in realtà la umanità religiosa entro la quale anche la fede sta crescendo e avanzando in una ricerca che non può disattendere l'attualità. In questo senso credo che una relazione così densa cercheremo di offrirla anche a stampa nel nostro annuario che uscirà più tardi del numero relativo della Humanitas, ma che insomma ci proponiamo di tenere all'attenzione anche nei prossimi anni. La ringrazio ancora. Grazie. Professore, e sarò sempre grato e riconoscente se lei, standoci vicino spiritualmente, insomma, ci può aiutare in questa impresa che insomma attende di essere continuamente sollecitata e sostenuta, vero, da chi questo pensiero lo sa coltivare e affrontare anche con la debita competenza e responsabilità.